giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Dune e sabbia. Dal chilometro 7600 al chilometro 10100 della via litoranea tra Castelpozzano e Torvaglianica, a sud della foce del Tevere, corre la spiaggia di Capocotta. Da una parte la macchia mediterranea, dall'altra il mare. Le abitazioni sono rare, poche case in costruzione, qualche circolo di caccia e qualche villa fanno della zona luogo di ritrovo dell'alta borghesia e dell'aristocrazia della capitale. Vilma Montesi è una ragazza come tante, romana, 21 anni, figlia di un falegname, fidanzata con un poliziotto in servizio a Potenza. Lei abita con la famiglia in un caseggiato popolare di via Tagliamento. Il pomeriggio del 9 aprile 1953 si reca ad Ostia. Prende il treno, o almeno è quello che racconta alla madre e alla sorella. Ma a casa non è più tornata. Anche me era una brava ragazza, io non posso dire niente. Usciva sempre a chiamarmi la sorella. Ho incontrato sempre questa famiglia completamente unita, sia con il fratello e sia con la sorella e la mamma. Qualche notte, pure verso mezzanotte, l'una, non so, ho incontrato la mamma e con la figliola che entravano in casa. Il nome di Vilma Montesi finisce sulle pagine dei quotidiani. Lei diventa la ragazza del pediluvio, la vittima di uno scandalo che scuote l'Italia del dopoguerra. Al microfono di Beatrice Nenca, Francesco Grignetti, giornalista e scrittore, autore di un libro di prossima pubblicazione sul caso Montesi. Erano gli anni 50, in Italia e nel mondo, ancora non era arrivata la dolce vita, non c'era stata la liberazione sessuale, non c'era stata la contestazione, e l'immaginare che una ragazza, quindi in quel contesto di 21 anni, potesse andare da sola al mare, sulla spiaggia, e lì misteriosamente morire, apriva squarci di fantasie le più impensate, e quindi l'intera società italiana saltò alle conclusioni. Le conclusioni non potevano essere che una: lì la ragazza c'era arrivata nell'ambito di qualcosa di peccaminoso, e questo peccaminoso non poteva essere altro che legato all'elite, al potere. Il corpo di Vilma viene trovato sulla spiaggia di Capocotta da un muratore, Fortunato Bettini. Sono le 7.20 dell'11 aprile, un sabato mattina livido e nuvoloso. Alle 9.30 i carabinieri di Pratica di Mare mettono a verbale i particolari. Bocconi sulla battigia, le mani sotto il viso, lo smalto sulle unghie. La vittima indossa solo una camicetta e delle mutandine. Niente gonna, calze e nemmeno reggicalze nero che era solita portare. Sul corpo però non c'è nessun segno di violenza. Il dottor Di Giorgio stabilisce la causa del decesso: annegamento. La morte non risale a più di 24 ore prima. Il procuratore capo di Roma, Angelo Sigurani, archivia la vicenda come incidente. Ma che cosa ci faceva una ragazza così su una spiaggia nota per gli allegri festini? Perché allora la morte di Vilma diventa un caso politico? Capocottari, tuona il comunista Giancarlo Paglietta, accusando i frequentatori dei festini. Parlano i primi testimoni, emergono nomi importanti. L'ipotesi è di omicidio a sfondo sessuale. Il caso Montesi appassiona l'opinione pubblica, travolge l'aristocrazia romana e scuote i palazzi del potere. Fu un grande scontro di potere all'interno del potere, ma fu una campagna in buona parte telecomandata da chi all'interno della DC o all'interno di alcuni apparati aveva interesse a demolire o comunque a intaccare il potere di altri apparati e di altre correnti. La corrente di Fanfani approfittò di questo scandalo per intaccare la forza della corrente antagonista, che era la corrente di Scelba, Piccioni, Spataro e, diciamo, i democristiani di destra, tra virgolette, in un aspro confronto per contendersi l'eredità De Gasperiana. Una donna, Anna Maria Di Caglio, soprannominata il Cigno Nero, punta l'indice contro l'ex amante, Ugo Montagna, di San Bartolomeo, marchese della tenuta di Capocotta, e contro il musicista Piero Piccioni, figlio dell'allora ministro degli esteri. Al microfono di Silvia Bernasconi, Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, autore per la Longanesi di Letto e Potere, storia sessuale della Prima Repubblica. L'impressione è che il povero Piccioni, e forse la stessa Montesi, senza che nessuno se ne rendesse conto sul momento, sono come due vittime sacrificali che, a partire dalla loro storia, dalla loro fine, uno è massacrato, insomma è espulso dal consenso civile, l'altra addirittura perde la vita, non sappiamo neanche come. Ecco, queste due figure siano quelle attraverso cui si stabilisce un nuovo codice di convivenza politica e anche sociale dentro il paese. Un giornale satirico, il Merlo Giallo, pubblica in copertina una vignetta con un piccione che tiene nel becco una giarrettiera nera. La stampa amplifica sospetti e accuse, porta avanti inchieste e gonfia scoop scandalistici. L'Italia degli anni 50 praticamente non parla d'altro. C'è un paese che comincia a leggere, c'è un paese che comincia a frequentare con regolarità e con entusiasmo i cinematografi, c'è un paese che non legge più solo il quotidiano ma che vede nascere i settimanali, i rotocalchi, illustrati, quindi naturalmente insomma c'è questo fatto anche proprio strutturale del sistema dei media che si sagoma in un paese dove si comincia a leggere, dove gli analfabeti stanno in calo sicuramente, dove la socialità. C'è anche la televisione, anche insomma, il 54, l'anno del caso Montesi, è anche l'anno dell'arrivo della televisione in Italia. Per la morte di Vilma Montesi vengono incriminati per omicidio colposo Piero Piccioni e per favoreggiamento Saverio Pulito, questore di Roma. Il 19 settembre 1954 Attilio Piccioni è costretto a dimettersi e lascia libero il campo. Il senatore a vita Giulio Andreotti segue da vicino in quei giorni le tappe dell'inchiesta e del processo. Si vide come si poteva, anche da un punto di vista giudiziario, essere talmente succubi della opinione pubblica così montata da compiere una serie di ingiustizie e devo dire anche di falsi. Tutto questo ha una necessità, secondo me, di essere rivisto, anche perché non solo praticamente distrusse politicamente una persona di un grande valore come era il senatore Piccioni, ma proprio perché il non dimenticare determinati fatti dovrebbe servire a evitare che si ripetano, anche se è rimasto tuttora, credo, irrisolto il problema della morte di questa giovane che tutto può essere fuori che sia morta per pediluvio. Le udienze del processo Montesi vengono rinviate fino al 21 gennaio 1957 e hanno luogo a Venezia. Il 18 maggio di quell'anno il verdetto. Piccioni, Montagna e Polito assolti. Così almeno allora decise la giustizia italiana.